Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sono imbarazzatissimo, vedo tutta questa gente, queste foto, ma non ho contenuti da esporre, quindi sono in una situazione di riserbo, ma di frustrazione, perché vorrei dire delle cose intelligenti e interessanti. Quando mi vengono ve le dico. Almeno aspetta il momento giusto, che è Cozzalone. Io invece per forza devo parlarvi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, era al Salone del Libro oggi che è Cozzalone, per raccontarvi come sempre ogni sera la giornata con un quadro esaustivo delle notizie più importanti e poi naturalmente con l'aiuto anche degli ospiti approfondendo alcuni argomenti in particolare. È stata una giornata incredibile oggi perché oltre alla sospensione da parte del Movimento 5 Stelle del sindaco di Parma Pizzarotti, quindi la vicenda va avanti e si complica ulteriormente dopo l'avviso di garanzia e tutte le polemiche che divampano eccetera, oggi c'è stata anche la sentenza che ha chiuso definitivamente la vicenda del rogo della ThyssenKrupp a Torino, poi è stato arrestato il notissimo ginecologo Severino Antinori e poi c'è stata anche la requisitoria, una delle udienze più importanti oggi sul caso dell'omicidio di Yara Gambirasio, al processo la PM, quindi la pubblica accusa, ha fatto la sua requisitoria, ha ricostruito tutta la vicenda, insomma tantissime le notizie di cui vi devo parlare, poi faremo come sempre il venerdì il punto sulla politica della settimana. A proposito della politica della settimana, uno dei temi principali naturalmente sono state le unioni civili. Ne abbiamo parlato ampiamente. Ecco, volevo semplicemente informarvi di questo sondaggio, siccome spesso ci si chiede ma gli italiani sono pronti, ormai comunque le unioni civili sono legge, dice questo sondaggio fatto dall'Istituto IPR Marketing diretto da Antonio Noto, la legge sulle unioni civili incontra il favore della maggioranza degli italiani, 3 elettori su 5, il 60% sono favorevoli al riconoscimento delle unioni civili, anche nel caso quindi di un eventuale referendum che annuncia da qualche giorno il centrodestra. Ma quello che vi chiedo questa sera è, per esempio, riferendosi non solo al caso del sindaco di Parma Pizzarotti, ma a molti altri casi anche di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, secondo voi un avviso di garanzia a una persona che ricopre un ruolo importante, istituzionale, come per esempio un amministratore pubblico o un politico, secondo voi quando arriva questo avviso di garanzia ci deve essere un automatico passo indietro per una questione di opportunità da parte di questa persona che ricopre questo ruolo? 349-238-6666, lo sapete come sempre, e lo dico anche ai milioni e milioni di nuovi ascoltatori, il numero per i messaggi SMS o WhatsApp 349-238-6666 per dire se secondo voi basta un avviso di garanzia e uno dovrebbe fare un passo indietro, oppure scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Intanto io vi riassumo la giornata. La strage alla Thyssen, la Cassazione conferma le condanne per i 6 dirigenti imputati. Politica, il Movimento 5 Stelle sospende Federico Pizzarotti, lui commenta, il direttorio è irresponsabile. Elezioni comunali a Roma, il TAR conferma l'esclusione della lista sinistra per Roma, Fassina sindaco, dalle elezioni amministrative del 5 giugno. Brennero, accordo raggiunto tra Italia e Austria, stop ai lavori della barriera anti-immigrati. Il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, requisitoria di 8 ore della PM Ruggeri che ricostruisce la vicenda e sottolinea la ragazzina morì fra paura e dolore dopo una lenta agonia. Coniugi uccisi a Cagliari, domani funerali, il figlio adottivo Igor, reo confesso, piantonato in ospedale dopo il conflitto a fuoco di ieri con le forze dell'ordine. Arrestato il ginecologo Antinori, accusato di avere spiantato ovuli a una giovane donna con la violenza. Longevità italiana, la donna più vecchia del mondo, a 116 anni, Emma Morano, vive in Piemonte. Cinema a Cannes, il giorno del regista inglese Ken Loach, che propone una tragica storia di quotidiana nuova estrema povertà e si esprime contro la Brexit. Sport, il Giro d'Italia tappa numero 7, a Foligno vince il tedesco Greipel mentre Dumoulin resta in rosa e l'Italia del nuoto sincronizzato ha ottenuto nel libero femminile la medaglia d'argento agli europei di Londra. Partiamo quindi dalla strage alla ThyssenKrupp. Dopo 8 anni e mezzo questa storia giudiziaria del rogo della ThyssenKrupp si chiude perché la Cassazione oggi, nonostante in mattinata il procuratore generale avesse chiesto l'annullamento con rinvio delle condanne, oggi invece la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Torino un anno fa. Quindi l'ex amministratore delegato Harald Espenan è stato condannato a 9 anni e 8 mesi, i dirigenti Marco Pucci e Gerald Prajnitz ha 6 anni e 10 mesi, il membro del comitato esecutivo dell'azienda Daniele Moroni ha 7 anni e 6 mesi e l'ex direttore dello stabilimento Raffaele Salerno ha 8 anni e 6 mesi. Il responsabile della sicurezza Cosimo Cafuer ha 6 anni e 8 mesi. 4 imputati italiani hanno già preso accordi per costituirsi in carcere tra venerdì sera e sabato mattina. In mattinata il procuratore generale aveva chiesto l'annullamento, vi dicevo, ma poi questa sentenza mette fine a questa vicenda. E siamo al caso Pizzarotti, guerra di accuse nel Movimento 5 Stelle, il sindaco di Parma, appunto Federico Pizzarotti, raggiunto da un avviso di garanzia, ne abbiamo parlato ieri, per 2 nomine al Teatro Regio di Parma, è stato sospeso dal Movimento. La notizia comparsa sul blog di Beppe Grillo ha suscitato polemiche e i malumori della base. Io, è stata la replica del sindaco, continuo a rappresentare il vero spirito del Movimento 5 Stelle. Arriva la scomunica per il ribelle Federico Pizzarotti, ma il sindaco di Parma accusa il direttorio 5 Stelle. Beppe Grillo pubblica un post sul blog per annunciare la sospensione di Pizzarotti dal Movimento. La trasparenza è il primo dovere, scrive il fondatore. Si contesta il mancato avvertimento dell'avviso di garanzia ricevuto dal sindaco per abuso d'ufficio su una nomina al Teatro Regio. Ma Pizzarotti contrattacca, è solo fango. Penso che qualcuno, e penso a Di Maio, che è il responsabile dei comuni, che per un anno almeno non ha voluto neanche mai fissare un incontro tra sindaci per confrontarci, per chiarire le regole, io penso che una responsabilità ce l'abbia e io penso che il direttorio in questo momento si sia dimostrato irresponsabile rispetto alla conduzione del Movimento. Non fornisco documenti a mail anonime, dice poi Pizzarotti, e non si dimette, Parma va avanti, non c'è nessuna crisi, giunta e consiglieri, siamo tutti allineati. La rete invece si divide, c'è chi critica la decisione e chi chiede che venga fatto lo stesso con il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, indagato per bancarotta fraudolenta. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Poi ci torneremo, vi dicevo, nel bilancio della politica della settimana. E restando sulla politica e parlando delle elezioni comunali di Roma, il TAR conferma l'esclusione della lista Sinistra per Roma Fassina sindaco dalle elezioni amministrative del 5 giugno con una sentenza, questa con la quale il TAR ha respinto il ricorso della lista stessa. Nel frattempo il ministro dell'Interno Angelino Alfano, a margine di un incontro oggi a Milano, ha detto: per le elezioni comunali proporrò al governo di votare anche lunedì, sia il 6 primo turno che il 20 giugno, spero che il governo dica sì. E poi dopo 10 giorni Simone Uggetti, sindaco di Lodi, ha lasciato il carcere milanese di San Vittore. Al sindaco PD sono stati concessi quindi gli arresti domiciliari dal GIP di Lodi. Il primo cittadino, vi ricordate, era stato arrestato lo scorso 3 maggio con l'accusa di aver pilotato il bando di gara per la gestione estiva di 2 piscine comunali. Ai domiciliari va anche l'avvocato Cristiano Marini, entrambi erano finiti in cella per pericolo di inquinamento delle prove. E siamo alla questione del Brennero. L'Austria annulla la costruzione della barriera, del muro di cui si era parlato in questi giorni al confine col Brennero. Lo hanno annunciato i ministri degli interni Angelino Alfano e Wolfgang Sobotka dopo un incontro al valico italo-austriaco. Non si fermano invece gli sbarchi, che secondo Frontex in Italia sono stati più che in Grecia. Sulle coste greche ad aprile sono approdati in 2700, in Italia nello stesso mese sono sbarcati in oltre 8000. Oggi diversi arrivi ci sono stati in Sicilia. Allora sentiamo la portavoce della Croce Rossa Alessia Lai al microfono di Valentina Furlanetto. In totale sono poco più di 1000. Lo sbarco più consistente è quello di Augusta con quasi 350 persone. Quello di Palermo sono sui 150 e sui 280 a Catania e 230 a Crotone. Questi sono i nostri dati. Quali sono le nazionalità interessate per quello che si è potuto sapere finora? Perché all'inizio si è parlato di siriani. Per quanto risulta a noi, gli arrivi sono tutti dal Sudan, dalla Somalia, dall'Eritrea, dall'Africa occidentale. Ad Augusta c'è stato qualche iracheno, qualche persona proveniente dallo Yemen e forse una dalla Siria, però sono chiaramente dati che vanno confermati anche dalle autorità. E siamo al processo per l'omicidio di Yara. Oggi udienza importante con la requisitoria di 8 ore della PM Ruggeri, che ha ricostruito un po' tutta la vicenda e ha sottolineato: la ragazzina morì fra paura e dolore dopo una lenta agonia, sottolineando nel ruolo della pubblica accusa la crudeltà anche di questo omicidio. La richiesta di condanna è rinviata ai prossimi giorni e poi la sentenza dovrebbe arrivare invece a metà giugno. Ne parleremo anche di questo con chi ha seguito passo passo questo processo e anche naturalmente nell'udienza di oggi. E siamo sempre sulla cronaca con i coniugi uccisi a Cagliari. È formalmente indagato per l'omicidio volontario plurimo Igor Diana, il 28enne che nel cagliaritano ha ucciso in casa i suoi genitori. Domani pomeriggio i funerali della coppia a Settimo San Pietro, dove sarà lutto cittadino. Non era programmato. Probabilmente era programmata la fuga successiva, sicuramente non il momento del delitto. Come spiega il dirigente della squadra mobile di Cagliari, Alfredo Fabrocini, quello dei coniugi Diana è stato un delitto di impeto non premeditato. È stato un raptus, non so cosa mi sia preso, ha dichiarato Igor Diana, il figlio adottivo della coppia massacrata in casa a Settimo San Pietro, che nella notte ha confessato il duplice omicidio. Il 28enne di origine russa avrebbe ucciso il padre Giuseppe, 67 anni, e la mamma Luciana Corgiolu, 62, tra domenica sera e lunedì. Nei due giorni successivi si è portato come sempre, uscendo con gli amici, acquistando droga e dormendo in casa con i cadaveri dei genitori. Poi la fuga, con la pistola del padre e il ritrovamento dei corpi mercoledì mattina. Il giovane è stato fermato ieri sera sulla provinciale 293 nei pressi di Nuscis, paese del Sulcis, dopo un inseguimento in auto. Quando è uscito di strada, prima si è puntato la pistola alla tempia, poi l'ha rivolta verso gli operatori. Hanno avuto lucidità e freddezza e hanno avuto anche molta fortuna perché l'hanno colpito alle braccia. Ora è ricoverato in condizioni non gravi all'ospedale di Iglesias. Ancora non chiaro il movente. A quanto si sa, Igor Diana era diventato più aggressivo in seguito ad un incidente d'auto mortale in cui era stato coinvolto nel 2013, anno a partire dal quale erano peggiorati anche i rapporti con i suoi familiari. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è stato arrestato nel pomeriggio a Roma dai carabinieri dei NAS di Milano il ginecologo Severino Antinori. Rapine aggravate, lesioni personali aggravate. Questo è il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Milano a carico del noto ginecologo Severino Antinori, che ora si trova ai domiciliari e nei confronti del quale è stata disposta anche l'interdizione dall'esercizio della professione medica per un anno. Secondo gli inquirenti, nell'aprile scorso, all'interno della sua clinica milanese Matris, ora sotto sequestro, e con la complicità di due strette collaboratrici alle quali è stato notificato il divieto di dimora nei comuni di Milano e Roma, Antinori ha espiantato alcuni gametti da una spagnola di 24 anni contro la sua volontà. La ragazza, sottoposta ad una cura ormonale fatta passare come terapia per il trattamento di una cisti ovarica, ha riferito di essere stata immobilizzata, anestetizzata e costretta a subire un'asportazione di ovuli, inoltre di essere stata privata del cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Al risveglio dall'anestesia, la giovane, approfittando della distrazione del personale infermieristico, è però riuscita a chiamare di nascosto il 112 da un telefono della clinica. Nella perquisizione della matrice, intanto, i militari hanno sequestrato 6 embrioni derivati dalla fecondazione degli ovociti prelevati alla ragazza spagnola e destinati ad essere impiantati a pazienti di Antinori. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi il secondo giorno del Salone del Libro a Torino, dagli intellettuali arabi ai Pulitzer, al Pulitzer Michael Cunningham, dai cantanti prestati alla scrittura come Ligabue a Claudio Magris. Insomma, al Salone del Libro di Torino la cultura alta si mescola con quella pop, come è anche bello e naturale. Nel secondo giorno un bagno di folla con persone in coda per due ore perché Checco Zalone, la Puglia è regione ospite, lui pugliese, così ha parlato del libro che il critico cinematografico Gianni Canova ha scritto su di lui. L'ho conosciuto, è un critico che stimo tantissimo, che ha scritto questo libro, che però non l'ho acquistato perché non ne vale assolutamente la pena, perché sennò sembra un marchettone che vengo a fare, che è un libro che hai scritto su di me senza che io ho manco una provvigione su sta cagata che hai scritto su. Cioè, non ho letto Tolstoi, devo leggere questo, e allora ho smesso di leggere. Io sono imbarazzatissimo, vedo tutta questa gente, queste foto, ma non ho contenuti da esporre, quindi sono in una situazione di veramente di, non di riservo, ma di frustrazione, perché vorrei dire delle cose intelligenti e interessanti. Quando mi vengono ve le dico. E noi lo aspettiamo per il cinema Cannes, Festival di Cannes. In questi giorni è stata la giornata del regista inglese Ken Loach, che propone una tragica storia di quotidiana e nuova estrema povertà in Gran Bretagna, e si è espresso contro la Brexit. E poi questa notizia che riguarda la longevità, perché è italiana la donna più vecchia del mondo, a 116 anni, si chiama Emma Morano, vive in Piemonte, è diventata l'ultima persona ad essere ufficialmente nata nel XIX secolo, dopo la morte ieri dell'americana Susanna Mashat Jones, di 4 mesi più anziana. Lo ha annunciato ufficialmente oggi il Gerontology Research Group, che cerca gli ultracentenari da 110 anni in su praticamente. È un'ex operaia lei di una fabbrica di Utah dove ha lavorato per 47 anni, vive sola nella cittadina di Verbania in Piemonte, una regione che non ha praticamente mai lasciato. Alla fine degli anni 30 invece ha lasciato il marito che la picchiava e non si è mai risposata. Per chiudere lo sport, al Giro d'Italia tappa numero 7 a Foligno vince il tedesco Greipel, mentre Dumoulin resta in rosa, e l'Italia del nuoto sincronizzato intronizzato, ha ottenuto nel libero femminile la medaglia d'argento agli europei di Londra. Prima di lasciarci per la viabilità, direi di dare uno sguardo ai vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 per gli sms e i WhatsApp. Vi ho chiesto oggi, visti i casi di questi giorni e che di nuovo si torna a parlare degli avvisi di garanzia usati come manganelli, oppure comunque c'è una ragione di opportunità che spinge a fare un passo indietro. Secondo voi, quando arriva un avviso di garanzia a una persona che ricopre un ruolo importante, come per esempio un politico, un amministratore pubblico, dovrebbe automaticamente fare un passo indietro? Roberto dice sì, per una persona di responsabilità pubblica e quindi con una retribuzione di tutti noi, le dimissioni dovrebbero essere di legge automatiche. Buon lavoro, lo ringrazio. Poi dice invece questo ascoltatore: dimissioni per un avviso che pure di garanzia mi pare fuori luogo. Altri come Nicola da Scanio, da Milano, dice: fare il passo indietro o meno deve essere lasciato alla sensibilità di colui che riceve l'avviso di garanzia, che è sicuramente l'unico a valutarne il peso e la portata. Continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook del programma di Effetto Notte, oppure 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E siamo di nuovo insieme, e ci mancherebbe, Roberta Giordano, sempre con voi, i vostri messaggi che continuano ad arrivare, mentre tra poco saluterò la prima ospite per fare il bilancio della politica della settimana. È quello che vi ho chiesto, appunto, è un avviso di garanzia. È decisivo per una persona che ricopre un ruolo importante, istituzionale, politico, per fare un passo indietro nel momento in cui arriva questo avviso che qualcuno viene indagato. Sulla pagina Facebook, per esempio, Chiara scrive, pagina Facebook di Effetto Notte: attenzione che l'avviso di garanzia non vuol dire altro che si sta indagando. Se lo si considera elemento sufficiente per pretendere le dimissioni, diventerebbe facilissimo far fuori gli avversari politici, basta sporgere una denuncia, anche totalmente falsa, ma che costringerebbe la procura ad indagare, quindi ad emettere l'avviso. Luciano scrive: se la persona è pulita, se si sente nel giusto, perché deve dimettersi? Enea dice: sì, a patto che la giustizia funzioni. Altri messaggi, dice sì questo ascoltatore o ascoltatrice, meno un nome d'arte, mettete qualcosa: se arriva una procedura della questura, qualcosa di particolare c'è, poi siamo bravi a dimostrare sempre l'opposto. Proseguite, mentre io vi ricordo quali sono le notizie più importanti, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. I 5 Stelle scaricano Pizzarotti, nessuna trasparenza da parte sua, accusano intanto il ministro dell'Interno Alfano per le elezioni comunali, dice proporrò di votare anche lunedì, mentre il TAR conferma l'esclusione della lista Fassina per le elezioni a Roma. ThyssenKrupp, la Cassazione conferma le condanne ai 6 imputati, quindi respinta la richiesta del procuratore generale per un nuovo processo di appello. Vienna non farà più il muro al Brennero, oggi c'è stata questa mediazione, questo incontro tra il ministro dell'Interno Alfano e quello austriaco. Il PIL accelera nel primo trimestre per quanto riguarda l'Italia, prelievo forzato di ovuli, è stato arrestato il famoso ginecologo Severino Antinori, la denuncia di una donna, e poi i carabinieri hanno sequestrato una sua clinica. È stata anche l'udienza oggi per il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la PM ha fatto la sua requisitoria, ha detto Yara è morta fra paura e dolore dopo una lenta agonia, e la sentenza dovrebbe arrivare a metà giugno. È italiana, la donna più vecchia del mondo, 116 anni, si chiama Emma Morano e vive in Piemonte. E adesso quindi facciamo il punto della politica di questa settimana, che è essenzialmente fatta di due temi: da una parte le unioni civili che sono diventate legge nel nostro paese e dall'altra il sindaco 5 Stelle di Parma Pizzarotti indagato per abuso d'ufficio, con tutto quello che è successo anche oggi. Partiamo però prima da questa svolta storica in ogni caso, sia per chi l'ha accolta con favore, per chi l'ha accolta con sfavore. Intanto saluto la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Allora, facciamo un breve riassunto, diciamo, per quanto possibile. Mercoledì il governo, sapete, ha posto la fiducia sul disegno di legge Cirinnà, la Camera ha approvato definitivamente il testo con 372 voti a favore, 51 contrari, 99 astenuti. E forte entusiasmo da parte del PD e anche da alcuni altri in Parlamento, e poi fuori c'è stata anche una grande festa anche nella fontana di Trevi con bandiere e cori. Ci sono state invece dall'altra parte le proteste delle opposizioni, tanto che poi il centrodestra ha anche annunciato un prossimo referendum abrogativo nei confronti di questa legge. Renzi ha commentato mercoledì: oggi è un giorno di festa, l'Italia fa un passo avanti, era un giorno tanto atteso. E poi ieri a Porta a Porta ha difeso ulteriormente questa legge, rivendicandone il successo con orgoglio e chiarendo anche in risposta alle critiche della Chiesa la sua posizione di cittadino cattolico e quella di politico laico. Io sono cattolico, ovviamente quando faccio politica la faccio da laico, cioè io ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Vespa, bisogna anche avere il coraggio di dire che se una cosa è giusta non ti devi preoccupare dei voti che perdi. Subito dopo il voto sentiamo anche lo stato d'animo della relatrice delle Unioni Civili, che porta anche proprio il nome, Monica Cirinnà. Un grande giorno di festa per tutti i parlamentari laici, democratici, un grande giorno di festa per le associazioni dei diritti delle persone omosessuali, un grande giorno di festa per chi vuole che questa Italia sia un paese inclusivo, democratico, aperto. Siamo arrivati con 30 anni di ritardo, ma stiamo arrivando bene e con un testo pieno di diritti. E ora invece andiamo con chi non ha gradito, non solo le opposizioni, ma per esempio lo stesso Pagano, parlamentare del Nuovo Centrodestra, Nuovo Centrodestra che fa parte della coalizione di governo, ma lui, Pagano, sta pensando di lasciare il Nuovo Centrodestra per Forza Italia. Sentiamo cosa ha detto. Per anni quasi tutti i componenti di questo governo ci hanno riempito la testa che la famiglia è fra i temi principali di azioni di governo. Di fatto abbiamo assistito invece a un disinteresse totale. Persino le modifiche apportate al DEF dello scorso anno sono rimaste lettera morta. Abbiamo assistito solo a un'azione costante di battute, di dichiarazioni di intenti, ma mai nulla di concreto si è realizzato. Anzi, abbiamo assistito a una strategia concreta nella lotta contro la sacralità della vita e il valore della famiglia naturale. Prova concreta che esistevano ed esiste un disegno, oserei dire diabolico, molto ampio, la disgregazione dell'umano, virgolettato. Quindi un disegno diabolico per la disgregazione dell'umano, dice Pagano. Ora le opposizioni, a cominciare dai 5 Stelle con Bonafede, che critica non tanto nel merito di questa legge ma nel metodo, cioè la fiducia. Allora vogliamo parlare di fascismo? E parliamone. È un fatto che sulla legge sui diritti civili, nella storia della Repubblica Italiana post-fascista, non c'è stato un governo che ha posto la fiducia. Figuriamoci la doppia fiducia. È un fatto che su una legge elettorale non c'è governo che abbia posto la fiducia, tranne il governo fascista. E poi il leader della Lega Salvini, che invita i sindaci a fare obiezione di coscienza, cioè a non celebrare le unioni civili. È una legge fatta male, complicata, su cui io inviterò i sindaci della Lega a fare obiezione di coscienza e a disobbedire. In realtà l'idea era venuta prima al candidato sindaco Roma Alfio Marchini, sentiamolo. Non ho nulla contro il riconoscimento dei diritti civili, ma non è compito del sindaco fare queste cose, per cui io trovo che sia giusto il riconoscimento dei diritti civili, ma solamente non solo un sindaco che celebra ma prima di che grande rispetto verso chiunque, questa è la mia posizione. A Marchini poi aveva risposto sia Renzi, che aveva sottolineato le leggi si rispettano, e anche lo aveva ribadito la ministra Boschi. Per quanto riguarda i sindaci, io nel massimo rispetto delle opinioni di tutti, credo che ogni sindaco, chiunque sia, in primo luogo è chiamato ad applicare la legge e a rispettare la legge. Quindi se il Parlamento italiano deciderà di approvare una legge che riconosce le unioni civili, io mi auguro che i sindaci, che sono i primi cittadini e quindi devono dare il buon esempio, siano i primi a rispettare le leggi dello Stato. A volte però qualcuno ci ripensa, e in questo caso è stato oggi il candidato sindaco a Roma Marchini. Le leggi si rispettano, questo è un'ovvietà, quello che dicono, Renzi compreso, rispettano, è un'ovvietà, le leggi si rispettano, punto, fine. Poi ognuno di noi ha, come dire, la sensibilità di dire che secondo me la celebrazione del matrimonio è quello che riguarda il matrimonio. Il fatto che in quella legge non ci sia né la prova della celebrazione né il matrimonio vuol dire qualcosa, per cui il rispetto delle unioni è assoluto, mi batterò fisicamente. Marchini ha anche detto a Corriere Live oggi: non solo è una legge giusta, ma è anche cristiana, oserei dire. Allora, Barbara Fiammeri, dopo tutto questo riassunto, naturalmente ci dirai un po' cosa pensi, ma anche dico già questo passo indietro, forse di Marchini, dà l'idea di quanto sia entrata comunque anche nella campagna elettorale questa vicenda delle unioni civili. Certamente è così. E poi c'è anche da dire che anche il mondo cattolico, diciamo, ha una posizione tutt'altro che univoca. Mm. La stessa Chiesa, pur criticando in modo netto la legge sulle unioni civili, ha invitato a non confondere, come invece hanno già detto i promotori del referendum, in particolare il referendum contro le unioni civili, contro la legge sulle unioni civili, in particolare il leader del Family Day, Gandolfini, minacciando, insomma, ce ne ricorderemo al referendum costituzionale. Mm. Perché poi in questo momento, secondo me, politicamente, non bisogna mai dimenticare che c'è la scadenza di ottobre sul referendum costituzionale, e tutti gli avvenimenti che stiamo vedendo in questo momento in qualche modo si collegheranno a quella scadenza, perché di fatto su quella scadenza Renzi ha già detto che si dimetterà qualora il referendum non passasse. Quindi è chiaro che tutti gli avvenimenti politici vengono legati, e sulle unioni civili in particolare è stata un po' cavalcata, diciamo, dall'opposizione cattolica o conservatrice l'idea, no? Ce ne ricorderemo al referendum, appunto, votando contro la legge di riforma costituzionale, cosa che invece anche i cattolici e la Chiesa hanno preso le distanze da una posizione così oltranzista, anzi hanno, diciamo, avuto parole abbastanza morbide nei confronti della legge costituzionale, positive. Quindi di fatto in questo momento noi ci troviamo in una situazione in cui c'è la necessità da parte delle forze politiche, anche per la scadenza elettorale delle amministrative, di cavalcare un po', a seconda della parte politica, le battaglie. Mm. Però non c'è dubbio che questa legge difficilmente in Italia si è tornati indietro sui diritti civili. Cioè, l'abbiamo visto, tutti i referendum che divorzio, aborto, eccetera. Non sono mai passati, perché poi in realtà in questo paese le leggi arrivano probabilmente molto tempo, almeno questo ci dice la nostra storia, molto tempo dopo che certi diritti vengono percepiti dall'opinione pubblica, dai cittadini, come effettivamente bisognosi di tutela. E quindi è difficile poi spostare l'opinione pubblica, anche se questo riguarda una fetta di popolazione, ovvero gli omosessuali, ma in realtà abbiamo visto anche nei sondaggi che furono fatti prima dell'approvazione della legge, gli italiani erano già pronti, insomma, erano contrari soltanto sulle adozioni, che guarda caso nella legge sono state stralciate. Senti, invece, passando all'altro tema principale della politica di questa settimana, Barbara, no? L'avviso di garanzia al sindaco 5 Stelle di Parma Pizzarotti, che ha accusato settimana un avviso di garanzia al sindaco, potremmo dire. infatti poi c'è stata questa lettera anche dei sindaci a Mattarella di ieri, sì, che dicevano, insomma, sì, la nostra nomea, la nostra fama, la nostra dignità deve essere tutelata, eccetera eccetera. Comunque, al di là di questo, è indagato per abuso d'ufficio nell'ambito di questa inchiesta della procura di Parma sulle nomine al Teatro Regio di Parma, perché secondo questa inchiesta, secondo l'accusa, non sarebbero state trasparenti, anche se Pizzarotti già ieri ha detto: io sono tranquillo, non vedo l'ora di chiarire con i magistrati, tutto a posto. Però oggi c'è stato un ulteriore sviluppo, nel senso che già ieri è intervenuto Renzi a porta, dicendo: abbiamo bisogno di giustizia, di giustizialismo. Poi la candidata sindaca a Roma per il Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, che ha detto: sì, però non bisogna usare gli avvisi di garanzia come un manganello, nel senso, poi ognuno dipende dalla gravità e così via. Oggi c'è stato questo ulteriore sviluppo con la sospensione da parte del Movimento 5 Stelle di Pizzarotti dal movimento, e quindi si è scatenato. Mentre ieri dicevano: ecco, il Movimento 5 Stelle ha il doppio pesismo, soprattutto il PD, ma anche altri partiti, no? Dicevano: perché voi, quando gli avvisi di garanzia arrivano agli altri, allora si devono subito dimettere, quando invece arrivano voi, il Movimento 5 Stelle, state lì a dire, come nel caso di Nogarin, sindaco di Livorno, però bisogna vedere, bisogna capire, eccetera. Oggi invece la polemica si è spostata, diciamo, quasi con una solidarietà esterna al Movimento 5 Stelle nei confronti di Pizzarotti, quindi gli altri partiti che ieri ce l'avevano con chi non faceva dimettere Pizzarotti, oggi dicono il Movimento 5 Stelle ha sospeso Pizzarotti e si comporta con la doppia morale in questo caso, perché con Nogarin c'è stata solidarietà e sostegno mentre Pizzarotti è stato scaricato. Vogliamo sentire qualche audio in proposito? Io direi di sentire per esempio Pizzarotti che dice: non c'è stata nessuna telefonata da chi conta nei miei confronti. Abbiamo visto Nogarin e su Nogarin c'è stato un tipo di comportamento e sul nostro diametralmente opposto. Non voglio dire che è due giorni che magari cerchiamo e ci aspettavamo un conforto, una telefonata da parte di chiunque. Invece ci hanno scritto centinaia di cittadini, di consiglieri comunali, di sindaci di qualsiasi schieramento e non c'è stata una telefonata da parte di nessuno che, come dire, conta, potremmo dire, quindi né del direttorio né di altri. E infatti Pizzarotti, anche questo passaggio che adesso sentiamo, punta il dito nei confronti dei vertici, in particolare Di Maio. E siamo rimasti al nostro posto per il bene del movimento. E invece penso che oggi qualcuno di anonimo, non abbia fatto il bene del movimento. Penso che qualcuno, e penso a Di Maio, che è il responsabile dei comuni, che per un anno almeno non ha voluto neanche mai fissare un incontro tra sindaci per confrontarci, per chiarire le regole, io penso che una responsabilità ce l'abbia e io penso che il direttorio in questo momento si sia dimostrato irresponsabile rispetto alla conduzione del movimento. Insomma, Barbara Fiammeri, c'è di mezzo sia la questione degli avvisi di garanzia, cosa bisogna fare in questo caso, domanda che anche ho sottoposto alle ascoltatrici e ascoltatori, stanno arrivando moltissimi messaggi, e poi per quanto riguarda invece l'interno del movimento, questa cosa intanto ha, diciamo, logorato ulteriormente il rapporto già logoro da tempo tra Pizzarotti e il Movimento 5 Stelle, soprattutto i vertici, no? E poi adesso c'è il timore, qualcuno all'interno del movimento ha il timore che sospendere Pizzarotti potrebbe causare un effetto a valanga su tutto il Movimento 5 Stelle, cioè l'addio del sindaco, quasi certo a questo punto, al movimento potrebbe portare a defezioni eccellenti anche per esempio di parlamentari alla Camera. Che ne pensi? Allora, dividiamo i due argomenti. Certo. Per quanto riguarda gli avvisi di garanzia e la domanda che tu hai posto agli ascoltatori, io credo che ci sia un problema in Italia, nel senso che c'è un eccesso di politicizzazione anche dell'attività dei sindaci, non solo. Dico anche che per quanto riguarda i 5 Stelle non è che amministrino tantissime realtà, diciamo che Parma e Livorno in realtà sono le due città più importanti che stanno amministrando. Mm. Abbiamo visto che anche in altre situazioni, Quarto ricordo, ma anche Enna, cioè ci sono state situazioni in cui c'è stato sia un problema rispetto alla cittadinanza, no? Nel caso in cui il sindaco abbia subito un avviso di garanzia, sia all'interno del movimento. Il caso di Quarto è durato parecchie settimane, non si capiva se si erano parlati con i vertici dei 5 Stelle, insomma, però era ancora vivo Casaleggio ed è questo il punto. Allora, il governo di una città impone di prendere delle decisioni e di firmare. È facile dire, imputare e puntare l'indice verso gli amministratori quando non si è mai assunta una responsabilità. Oggi il Movimento 5 Stelle, grazie al voto degli elettori, ha la possibilità di governare alcune realtà e si ritrova in situazioni simili a quelle che trovano altri amministratori. È chiaro che poi qui ritorniamo al discorso che la giustizia dovrebbe fare celermente il suo corso per evitare poi che un amministratore che è stato eletto venga, come dire, messo alla gogna o comunque menomato nelle sue, anche politicamente parlo ovviamente, perché non è che Pizzarotti ha subito, come ad esempio invece il sindaco del PD che è stato arrestato. Ugetti. Però non c'è ma non c'è dubbio, no, che un avviso di garanzia a un sindaco indebolisce la figura del sindaco. è tutt'altro che di garanzia, direi, è quasi un ossimoro parlare di garanzia nel caso di questi avvisi, perché in realtà diventano quasi delle sentenze anticipate, almeno da parte della, dell'opinione pubblica, anche dei media. Per quanto riguarda invece i 5 Stelle, appunto, loro stanno facendo i conti con che cosa significa quando si arriva ad assumere delle responsabilità pubbliche e quindi incorrono anche in queste difficoltà. Non entro nel merito delle vicende che sono molto diverse, sia quella di Nogarin a Livorno per quanto riguarda Pizzarotti, per quanto riguarda Quarto ed altre vicende. Sono tutte e tre molto diverse l'una dall'altra, però è evidente che con la morte di Casaleggio, come era prevedibile, c'è una mancanza di guida all'interno del movimento e come dire... Ora sarà interessante vedere effettivamente la solidità, è chiaro, è un movimento nuovo, è giovane, ha perso il fondatore, una guida importantissima, bisogna vedere adesso come riesce a... Sì, però è significativo che la stessa Raggi, no? Da un giorno all'altro, cioè il giorno prima abbia detto non usiamo gli avvisi di garanzia come Manganelli, oggi di fatto effettivamente Pizzarotti... È vero quello che lui dice, cioè nessuno mi ha telefonato, ha ricevuto questa mail firmata allo staff di Grillo, che insomma per uno che, ripeto, hanno due sindaci importanti per ora, cioè Livorno e Parma, cioè ci si aspetta comunque un po' anche più di sostegno. Ma io parlo anche di un'assunzione di responsabilità del partito, come ad esempio l'allontanamento, però... Deve essere fatto dal vertice del partito, non può essere fatto in questo modo. Chiarissima. Grazie Barbara Fiammeri e buon fine settimana. Ciao Barbara. Adesso leggevo ancora i vostri messaggi, per esempio questo di Tonio che dice la differenza tra Pizzarotti e il direttore del Movimento 5 Stelle è che il primo è un sindaco che amministra e si sporca le mani, mentre i secondi stanno comodi al caldo dietro i banchi dell'opposizione ad abbaiare alla luna. Continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte 349-238-6666, ritorniamo tra poco e parliamo del processo per l'omicidio di Yara Gambirasio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, che so che veramente da ogni latitudine. Adesso approfondiamo un altro argomento, vi ricordo tra poco le notizie più importanti e i vostri messaggi continuano ad arrivare sull'avviso di garanzia, se deve essere un automatico motivo di passo indietro per chi ricopre un ruolo importante nella pubblica amministrazione, nella politica, eccetera. Per esempio Alberto scrive assolutamente no, un avviso di garanzia se comporta le dimissioni in automatico diventa una clava politica per togliere di mezzo gli avversari. Dimissioni soltanto dopo il terzo grado di giudizio, se però arriva in tempo celere, diversamente perderebbero di significato. Le notizie più importanti. La strage dalla Thyssen, nella Cassazione conferma le condanne per i 6 dirigenti imputati. Politica, il Movimento 5 Stelle sospende Federico Pizzarotti, lui commenta il direttorio è irresponsabile. Elezioni comunali a Roma, il TAR conferma l'esclusione della lista sinistra per Roma Fassina sindaco dalle elezioni amministrative del 5 giugno. Brennero accordo raggiunto tra Italia e Austria, stop ai lavori sulla barriera anti-immigrati. Il processo per l'omicidio di Yara, di cui parleremo tra pochissimo. Coniugi uccisi a Cagliari, domani funerali, il figlio adottivo Igor reo confesso, piantonato in ospedale dopo il conflitto a fuoco di ieri con le forze dell'ordine, poi arrestato il ginecologo Severino Antinori, accusato di aver espiantato ovuli a una giovane donna con la violenza. Quindi il caso della piccola Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate Sopra, vicino Bergamo, ve lo ricordo che il 26 novembre 2010 fu seviziata, lasciata morire tra le sterpaglie di Chignolo d'Isola e poi ritrovata 3 mesi più tardi in un campo incolto. Oggi prosegue il processo oggi a carico di Massimo Giuseppe Bossetti, 45 anni, carpentiere di Mapello con 3 figli, unico indagato, unico imputato. Oggi c'è stata una tappa molto importante perché del processo, perché la PM, cioè la pubblica accusa, Letizia Ruggeri, ha tenuto la sua requisitoria che è durata circa 8 ore, però sarà poi aggiornata nei prossimi giorni. Ne parliamo con Vittorio Attanà, giornalista dell'Eco di Bergamo. Bentornato Vittorio. Sì, grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Che sta seguendo da sempre il processo. Allora, oggi giornata importante, soprattutto ha fatto questo vari passaggi toccanti, no? Letizia Ruggeri, soprattutto dopo che ha sottolineato che la povera Yara è morta dopo una lunga agonia, no? Sì, hai detto bene, tu presentando la notizia, hai detto Yara è stata seviziata. Il PM ha insistito molto su questo particolare, non è un termine generico, ha insistito su questo particolare perché a Bossetti è contestata l'aggravante delle sevizie della crudeltà ed è l'aggravante che consente al magistrato di chiedere il massimo della pena, cioè l'ergastolo. Oggi il PM non ha concluso la sua requisitoria, quindi non ha pronunciato la parola fatidica, ma è chiaro che l'insistenza su questi punti, su come è morta Yara, sulle ferite che ha riportato, che sono state definite eccessive rispetto all'animus necandi, eccessive addirittura rispetto alla semplice, chiamiamola così, volontà di uccidere, sono prodromiche queste affermazioni del PMA, la richiesta dell'ergastolo che arriverà quasi certamente mercoledì prossimo nella prossima udienza. Questo per quanto riguarda la richiesta da parte della PM, poi invece la sentenza, quindi quando le metteranno i giudici? Mi pare a metà giugno, Vittorio? Sì, dovrebbe essere entro metà giugno perché mercoledì concluderà il pubblico ministero, venerdì prossimo sarà la volta delle parti civili e la settimana successiva, quindi siamo alla fine di maggio, toccherà la difesa. A mio avviso non basterà, come non è bastato al pubblico ministero, non basterà nemmeno alla difesa una sola udienza per sviscerare tutti gli argomenti difensivi in questo caso di questo processo, che sono veramente tanti, a partire da quelli tecnici sul DNA, per cui ci si vorranno probabilmente 2 udienze anche per la difesa, e quindi si andrà tranquillamente alla metà di giugno per la sentenza, non prima, ecco, se devo fare un pronostico. Per chiudere, Vittorio, a parte che ho letto che ci sono state anche delle risse fuori dal tribunale tra innocentisti, colpevolisti, senti, ma invece l'imputato Bossetti oggi come l'hai visto? È rimasto impassibile come di solito? Assolutamente impassibile come al solito, non lo abbiamo visto muovere un ciglio oggi come non ha mosso un ciglio in occasione di testimonianze anche toccanti, quando si è parlato dell'autopsia sulla povera Yara, quando si è parlato di DNA. Le uniche volte in cui ha avuto un sussulto è stato quando i suoi colleghi di lavoro sono venuti in aula a testimoniare, affermando che lui diceva bugie sul luogo di lavoro. Lui si è difeso dicendo che non è vero, che si trattava di semplici scuse perché lui subiva torti, come quello per esempio di non essere pagato dal suo datore di lavoro, e quindi si assentava dai cantieri per cercare altri lavori, per cercare di arrotondare. Insomma, ha cercato di giustificarsi su questioni minori, ma su quelle fondanti delle accuse che gli sono rivolte è rimasto sempre impassibile. Vittorio Attanà, ti ringrazio molto, giornalista dell'Eco di Bergamo, ci risentiamo quindi per le prossime udienze. Grazie e buon lavoro. Grazie, Vittorio. Grazie Roberta, buonasera. Ciao, di abilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Mentre proseguono i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vi ricordo i titoli più importanti: la strage, la Thyssen, è arrivata la sentenza della Cassazione che conferma le condanne per i 6 dirigenti imputati. Per la politica il Movimento 5 Stelle sospende Federico Pizzarotti, lui commenta: il direttorio è irresponsabile. Il processo per l'omicidio di Yara, ne abbiamo appena parlato, oggi è stata la requisitoria della PM Ruggeri, e poi è stato arrestato il ginecologo Antinori, accusato di avere spiantato ovuli a una giovane donna con la violenza. Europa 24 notte. Con la politica agricola comune 2014-2020 sono state introdotte delle nuove norme per incentivare le aziende agricole a produrre cibo in modo sempre più sostenibile. La sostenibilità, oltre a essere necessaria per il benessere delle generazioni future, può essere un valore aggiunto per i prodotti europei, lo ha detto il portavoce della Commissione europea per l'agricoltura, Daniel Rosario. In Europa il 10% delle emissioni di gas a effetto serra sono prodotte dall'agricoltura. Dal 1990 a oggi, grazie alle nuove tecnologie e alla diffusione di pratiche agricole ecosostenibili, le emissioni del settore agricolo europeo si sono ridotte del 25%. La nuova politica agricola comune 2014-2020 stanzia quasi la metà del suo bagaglio finanziario, circa 170 miliardi di euro, a favore delle produzioni sostenibili e per i programmi di sviluppo rurale. Rigide regole per la sostenibilità non sono solo necessarie per far fronte a una richiesta di cibo che raddoppierà a livello planetario entro il 2050, ma deve anche diventare un punto di forza per i prodotti europei, spiega il portavoce ufficiale della Commissione europea per l'agricoltura, Daniel Rosario. The Commission has made a priority the policy measures to help. La Commissione europea ha come priorità quella di aiutare la crescita economica delle aziende agricole e una delle misure adottate è la promozione, cioè aiutare i nostri agricoltori a trovare nuovi mercati per esportare i loro prodotti. L'Unione europea è il maggiore esportatore al mondo di prodotti agricoli e questo nonostante le rigide regole per la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente. L'Europa è molto competitiva nel mercato dei prodotti di alta qualità, per questo dobbiamo fare in modo che qualità e sostenibilità delle produzioni diventino un modello e un marchio di fabbrica da esportare nel mondo. Da una prima analisi della Commissione europea, più del 70% dei terreni agricoli risponde già ad almeno uno dei criteri di sostenibilità imposti dalla nuova PAC, che sono la diversificazione delle colture e la destinazione del 5% dei terreni ad aree di interesse ecologico. Ma per favorire le aziende virtuose sui mercati nazionali e internazionali è necessario renderle riconoscibili prima di tutto dai consumatori e una certificazione standard a livello europeo ancora non c'è. Riccardo Valentini, membro del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici. Dobbiamo dire che non esistono in realtà dei sistemi di certificazione istituzionali rispetto per esempio alle emissioni di gas serra, all'uso delle risorse idriche, no? Esistono alcuni marchi e alcuni calcoli nelle etichette, eccetera, ma non hanno ancora avuto un riconoscimento internazionale. Mentre abbiamo la norma sul biologico, cioè abbiamo ovviamente la certificazione del biologico, che è nata però prima della discussione dei cambiamenti climatici, delle emissioni di gas serra, quindi aveva uno scopo diverso. Oggi è necessario invece avere una certificazione a tutto tondo. Le aziende con il riconoscimento per le produzioni biologiche in Europa, sebbene continuino a crescere, sono 186.000 su 12 milioni di agricoltori, vale a dire poco più dell'1,5%, lontano da quel 70% di aziende virtuose che vanterebbe l'Unione Europea. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E mentre ringrazio Silvana della provincia di Genova per il suo messaggio e tutti voi, tantissimi messaggi, dobbiamo sentire che tempo farà questo fine settimana. Paolo Corazzoni, Trebimeteo sicuramente ci darà ottime notizie, essendo portatore sano di sole, non è vero? Sì, ma ogni volta mi metti questo compito. Allora, buonasera Roberta, ciao. Buonasera a tutti. In realtà sarà un weekend ancora molto variabile. Domani siamo ancora a rischio temporali al nord e sulle regioni tirreniche. Magari fenomeni di breve durata, però ombrello a portata di mano in queste zone, meglio domani al sud e sul medio Adriatico, dove anzi si starà anche particolarmente bene. Domenica al contrario torna il sole al nord, invece atmosfera molto instabile al centro-sud, quindi anche lì con dei temporali nel pomeriggio, però c'è da dire che da lunedì torna l'alta pressione, settimana prossima molto più tranquilla, temperature decisamente più alte, insomma la primavera ci mostrerà la sua faccia migliore settimana prossima. È inutile che anticipi settimana prossima per confortarci questo fine settimana, comunque insomma, può essere un buon escamotage. Provo. Grazie Paolo, buon tempo buon a te tempo comunque a tutti. Sia. Ciao, ciao. Ciao Paolo. Maria da Napoli, per chiudere, dice: bisogna che i mass media non demonizzino l'avviso di garanzia che è comunicazione che la magistratura sta indagando, ma anche il rinvio a giudizio da considerare come condanna perché bisogna celebrare il processo. Quindi nessun passo indietro, dice Maria, visto anche quanti non luogo a procedere chiudono i processi in Italia. Io a questo punto invece devo chiudere proprio effetto notte, poi sapete che ci risentiamo alle 22 per gli aggiornamenti. Dopo li vado a vedere i messaggi sulla pagina Facebook di effetto notte al 349 238 6666.